La musica è finita. L'interprete di questa canzone è una cantante con una carriera molto particolare. Infatti ha iniziato cantando canzoni particolari, poi è stata attrice di grande successo e adesso infine cantante di musica leggera. La musica è finita di Nisa Califano Bindi, dirige l'orchestra il maestro Gianfranco Intra, canta Ornella Vanoni. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito niente. Nemmeno una parola, l'accenno ad un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei? Amici se ne vanno ed io mi sento solo.